La chiesa alla quale appartengo non è la mia chiesa. Se le parole hanno il loro significato e la loro importanza, tra dire appartengo ad una chiesa o la mia chiesa ci è una differenza enorme e sostanziale. Io appartengo ad una chiesa locale, perché la chiesa non è mia, ma di Gesù Cristo. È evidente e sottinteso che chi ha posto fede in Cristo non ritiene la chiesa alla quale appartiene di sua proprietà. Ma parlare in modo sconsiderato e con espressioni quali la mia Chiesa non aiuta nessuno a ricordare che la Chiesa appartiene solo a Gesù Cristo, perché è Lui che l'ha comprata a caro prezzo tramite il suo sangue. Su questa linea è pure sbagliato dire la Chiesa di Mario o la Chiesa di Francesco, perché anche senza volerlo si porta la gente a pensare che una Chiesa appartenga ad un uomo. Se il nostro parlare ha influenza, dobbiamo esprimerci il più precisamente possibile per non disonorare il regno di Dio. Lo stesso errore è compiuto da un credente, appartenente ad una chiesa, quando prega: Signore, benedici questa chiesa, come se la chiesa e lui fossero due realtà distaccate. Se vado in casa di una famiglia e prego: Signore, benedici questa famiglia, tutto è regolare. Ma se la mia preghiera è: Signore, benedici la mia famiglia, sono certo che chi mi ascolta mi guarderà piuttosto sorpreso. A dover destare preoccupazione non è solo il linguaggio, ma anche la eventuale possibilità che dietro a un'espressione verbale del credente non si nasconda un cuore concretamente distaccato dalla chiesa d'appartenenza. Molto probabilmente, come alcune persone si uniscono in matrimonio senza per questo sentirsi sposate, cioè vincolate, così molti credenti frequentano una comunità senza per questo sentirsi parte della Chiesa. Che la Chiesa proceda bene o male per loro non ha tanto importanza, perché loro sono una realtà e la Chiesa è un'altra. Io invece mi sento coinvolto con la Chiesa alla quale appartengo, al punto che se tutto non procede bene anch'io mi sento responsabile, se tutto va bene gioisco anch'io perché ho fatto la mia parte. Proprio per questo le mie energie e i miei obiettivi non sono isolati ed egoistici, ma sono tesi ad essere svolti nella Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa, perché l'importante non è il mio progresso spirituale, ma quello della Chiesa. Io posso anche crescere spiritualmente e non fare del bene della Chiesa, mentre se faccio del bene alla Chiesa, automaticamente me ne faccio anch'io. Quando è scritto chi annaffia sarà annaffiato, PR 11.25, vuol dire proprio questo. Nella chiesa alla quale appartengo ho il privilegio di svolgere il servizio di portinaio. Appena diventato figlio di Dio ho sentito immediatamente il bisogno di svolgere un servizio a favore dei credenti, ma soprattutto anche ai non credenti. Così sono sempre arrivato agli incontri un poco prima dell'orario per salutare coloro che entravano. Ai credenti do un forte santo abbraccio e bacio. Ai non credenti un caloroso saluto affinché sappiano di essere accolti con piacere. Un compito che sembra da poco, ma il più delle volte al primo sguardo ho potuto notare nei volti di coloro che entrano segni di tensione, di preoccupazione, di stanchezza, e poter subito dare una parola opportuna per poi fissare in seguito eventualmente un appuntamento per parlare con più calma di ciò che li preoccupava. Ai credenti presento Cristo come la risposta ai loro problemi, perché Egli non è solo il Salvatore delle anime, ma anche il Salvatore da una vita di preoccupazioni, di tensioni e di una snervante stanchezza. A coloro che non hanno realizzato la nuova nascita presento sempre Cristo come la risposta ai problemi del loro rapporto con Dio, perché Cristo li ha già riconciliati con Dio con il suo sacrificio e resurrezione. Nella Chiesa alla quale appartengo ho la grandissima gioia di aiutare coloro che sono interessati al battesimo. Infatti, chi chiede il battesimo non viene subito battezzato, ma è richiesto che svolga alcuni corsi biblici per acquisire una maggiore consapevolezza della propria scelta e perché abbia un minimo di conoscenza delle verità e dottrine del cristianesimo. Seguendo personalmente il percorso di fede di ciascuno, ho l'opportunità di afferrarne la preparazione e non Poche volte alcune persone che si ritenevano cristiane, dopo una conversazione opportuna, indirizzata soprattutto a captare le riposte sbagliate dei battezzandi, hanno compreso da se stesse di non essere nate di nuovo. È superfluo dire quanta gioia ho provato nel vedere durante questi incontri delle conversioni e consacrazioni a Cristo, e le loro lodi a Dio perché il corso preparatorio aveva aperto loro gli occhi. Da quando si è fatta questa scelta, coloro che appartengono alla Chiesa sono più preparati e responsabili, hanno compreso che la Chiesa non è solo un luogo dove solo si riceve, ma anche un mezzo per servire Cristo e il suo regno in modo maturo e adeguato. Contrariamente a quanto può sembrare, le persone sono felici di vedere che per far parte di una Chiesa occorre serietà e impegno. Nella Chiesa alla quale appartengo mi sono proposto che nessuno rimanga con il desiderio né insoddisfatto di studiare la parola di Dio. Infatti, appena ho posto fede in Gesù, mi sono impegnato di essere disponibile qualora qualcuno avesse espresso il desiderio di conoscere meglio la parola di Dio. Appena ne faceva richiesta, il giorno dopo ero già a casa sua con la Bibbia per affrontare qualsiasi argomento e rispondere a qualsiasi domanda. All'inizio della mia conversione non era per nulla facile, perché le domande e gli argomenti erano i più svariati, ma con il passare del tempo e con il meditare la parola di Dio alla luce dei più diversi soggetti, la persona dello Spirito Santo mi ha insegnato ciò che era necessario. Recentemente una coppia di sposi che si professava cristiana ha espresso un grandissimo desiderio di studiare la parola di Dio, così il giorno dopo con immenso piacere ci siamo radunati attorno ad un tavolo con la Bibbia e non solo hanno compreso che erano perdute, ma lo Spirito di Dio ha operato nel loro cuore inducendoli a rendersi completamente a Cristo, e inoltre un'altra coppia di sposi loro parenti e altre persone loro amici sono diventate parte della Chiesa di Dio. Le riunioni settimanali regolari in casa loro hanno prodotto più benessere alla Chiesa di tante altre attività dispendiose di tempo e denaro. La Chiesa alla quale appartengo per me ha sempre avuto la priorità su tutto. Questo aspetto ha comportato da parte mia atti di devozione a Cristo non indifferenti sia nell'ambito del lavoro sia nella famiglia. Sul lavoro il mio comportamento era ineccepibile dal punto di vista dell'impegno e della serietà, al punto che sono diventato uno degli operai migliori, ma spesse volte dovevo chiedere permessi e ferie per servire meglio la Chiesa meno, in occasione di funerali, matrimoni e studi biblici meno. E questo creava un conflitto non indifferente con il datore di lavoro, il quale voleva una mia più massiccia presenza sul posto di lavoro. In famiglia le cose non erano molto diverse. Quando Gesù disse «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo» LC 14.26, voleva proprio dire che Cristo e la Chiesa dovevano avere la precedenza su tutto. Diversamente non si può essere suoi discepoli, cioè seguaci o allievi. Purtroppo per la salvezza si è disposti a fare anche tutto il possibile, ma in merito al vivere per Cristo spesso non si è disposti a fare il possibile su tutto. Per questo la Chiesa diventa uno dei banchi di prova più difficili riguardo al nostro amore per Cristo. Nella Chiesa alla quale appartengo ho il compito di predicare la parola di Dio e di questo lo devo in gran parte alla Chiesa. Quando le prime volte mi è stato chiesto di esprimere le mie riflessioni in merito a ciò che comprendevo della Bibbia, avevo delle grosse difficoltà di comunicazione, perché oltre a dover imparare ad esprimermi correttamente ho una fastidiosa balbuzie che non riuscivo a trattenere. La Chiesa, con molto amore, comprensione e pazienza, mi ascoltava e mi incoraggiava perché comunque rimaneva edificata, sicché, col passare del tempo, con la calma e la fiducia ho imparato ad esprimermi adeguatamente, riuscendo anche a controllare la balbuzie. Inoltre il grande aiuto della Chiesa è stato soprattutto nell'ascoltarmi attentamente, nel giudicare le mie riflessioni, nel disapprovare certe opinioni, in modo che io potessi verificare meglio ciò che dicevo e come lo dicevo. Gli incoraggiamenti erano molto utili, ma ancor di più essere a volte giudicato anche ingiustamente, perché una verità la si possiede molto maggiormente quando è stata messa alla prova con la giusta o ingiusta opposizione. La Chiesa alla quale appartengo è il luogo dove io esprimo la mia fede con costanza. Parecchi credenti hanno l'abitudine di girovagare tra le chiese senza trovarvi dimora, e anche se in questo modo evitano le difficoltà inerenti ad una comunione fraterna stabile, non hanno neppure la gioia di vedere successi, progressi e conquiste assieme ad una chiesa. Chi non si sente parte di una chiesa è un orfano, ma nella famiglia di Dio non ci sono né orfani né bastardi, perché una famiglia è una famiglia. Perciò chi non ha fratelli in fede molto probabilmente non ha Dio come padre e madre, e Gesù come fratello. Maturando nella conoscenza ho imparato che la Chiesa non è il mio punto di appoggio per la fede che esprimo, perché Cristo Gesù è e rimarrà la mia fede e il mio sostegno. Perciò anche se la Chiesa alla quale appartengo dovesse intraprendere un cammino sbagliato, la fede in Gesù quale maestro, guida e padre è stabile, però la Chiesa rimane sempre e comunque il luogo nel quale posso testimoniare e verificare se il mio amore per Dio è sincero. E questo perché ho preso sul serio ciò che è scritto nella parola di Dio. Se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. 1 GV 4.20. Così, amando la Chiesa alla quale appartengo, divento simile a Gesù Cristo, il quale ha dato la sua vita per essa. E credo che non vi sia un compito più grande. Ottobre 2007. Ellero,